Progress, quando la tecnologia diventa per tutti. Niente! Niente bottiglie oggi! Peccato, perché un goccettino me lo sarei fatto! Qui con la carta, vediamo, sto a metà, va, o poco più. Solo che ho già letto tutto. Ehi ragazzi, ma qui non ci sta neanche uno spillo! Ma che mi venite a tirare fuori tutta questa roba? Beh, non è ancora così, non è che i cassonetti per i rifiuti ci parlano del loro lavoro, però stanno arrivando i robot che raccolgono la spazzatura porta a porta comunicando con il cittadino. Invece, i cassonetti che segnalano il livello dei rifiuti contenuti, quelli sì, cominciano ad apparire. A Firenze è iniziata una sperimentazione, un'altra sta iniziando a Catania. Il sistema è semplice. Come i navigatori delle auto, i cassonetti hanno un GPRS che invia dati a una centrale e c'è un sensore che internamente misura il livello raggiunto. Il fatto più importante in questo genere di innovazioni è la ricaduta che si ha nella gestione delle aree metropolitane. Il sistema vede centinaia di mezzi che ogni giorno compiono gli stessi percorsi, indipendentemente dalla quantità di rifiuti da ritirare. Inviare i camion dove effettivamente serve farebbe risparmiare carburante, CO2 e ridurrebbe il traffico cittadino. Se volete scriverci, progress@radio24.it. Progress vi aspetta domani alle 18:30 su Radio 24, in collaborazione con Ford.